perché io posso parlare. Io so cosa vuol dire stare solo e male. Understand what is wrong now in Italy. Perché io so parlare e dico cose vere. In the world. Combatterò finché non vedrò il bianco candor degli occhi, giorni tuoi in oro nei miei sogni ora. Isolato scrivo versi di orrori e rifiuto di ciò che è antiliberale e incostituzionale. Loro giurarono di non mentire qualsiasi ordine. Beh, ma ora lacrime, ora combatto anche se solo a parole. E in una canzone i detrattori mi vogliono pazzo e chissà cos'altro. Ma giurarono a tutti che il nostro sogno ci sarebbe avverato. La libertà e il nostro sogno non avrebbero spezzato. C'è chi avrebbe curato ogni ordine al suo giuramento. Draghi fa il bene della nazione, ci siamo capiti, o reazione. Governo tecnico fatto da chi va a certe cene, pezzi di fango, buon cenone. E si vede chi ha il pancione e il conto che brilla. La tipa che nel letto strilla, il castello che mai manca. La villa abbondante, conto in banca, senza essere mai stato in panca o in manca. Se la manca di chi opposto a lui aveva solo una stanza in manca. Poteri forti condizionano burattini forti che altri pesci deboli muoiono e mangiano a catena. Ma questo è quando un piccolo diamitardo bastardo esplode nel culo della balena. Comodi a casa, io c'ho l'Inps e la nausea. Comodi che la rivoluzione la fanno sempre gli altri. Stoppati i miei versi, dinamitardi, liberati come dovrebbero essere noi. Liberati, affamati, estremati, non riusciremo neanche armati. Dannati giorni isolati. Pregiudizio a tutti. E non si scopa più da anni. Pregiudizio. Perché siamo isolati. E non solo per il malato. Per il colore, per l'università. Pregiudizio. C'è chi può parlare. Il pregiudizio è un crimine. Il pregiudicato è un criminale.